1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti e forza, cari ascoltatori, che è la 78esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, sta per terminare con un nulla di fatto. Vabbè, c'è la 79esima, dai, animo, schema allegri e restiamo allegri, dai. Allora, oggi parleremo di che cosa? Beh, mi ha molto colpito questo utilizzo del corpo altrui per la delegittimazione. Ciccione, nano, brutto, schifoso. Quante volte l'abbiamo sentito? Di recente anche il cicciottello Toir è stato preso in giro, Beh, vogliamo parlare di questo, l'uso del corpo altrui come delegittimazione, non solo in politica, ma in generale. Ricordate il ministro belga della salute, troppo grassa per essere ministro della salute, ma che è? Che modi sono? Avremo Marione Adinolfi, avremo Vincino, uno che fa satira da decenni, e la satira spesso si è divisa, no? L'Andreotti Gobbo, potete immaginare. Avremo Selvaggia Lucarelli ai nostri microfoni dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 31 ottobre e i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla crescita americana, si rafforza con export e investimenti. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Corriere della Sera la FIOM sfida Renzi, sciopero. Poi la vicenda degli esteri, il Colle boccia le candidate di Renzi, lavoro, sciopero, FIOM, questo è Repubblica, anche il Fatto Quotidiano, esteri, stop di Napolitano, non vuole più renzate, messo tra virgolette. Mentre sindacati Renzi, sfida continua, questo è il titolo di apertura della Stampa. Il Giornale invece, Alfano come Fini. Mentre il Messaggero, nuovo 730 a casa già compilato. Queste sono alcune delle aperture. Voglio subito buttarmi però, tuffarmi nella lettura dei tanti articoli che vi ho selezionato, a cominciare da Luigi De Magistris. Allora, oggi si riconquista due pagine, colui che è stato reintegrato da sindaco sospeso a sindaco a tutti gli effetti di Napoli. Il TAR lo reintegra, De Magistris torna sindaco. E ora ovviamente si appella alla stessa normativa Forza Italia, il TAR ha bocciato la legge Severino, è la stessa legge Severino che per Berlusconi ha effetti diversi, in quel caso decise il Senato. Comunque è pieno di pagine con Luigi De Magistris che torna prepotentemente alla ribalta, per esempio pagina 11 del Corriere della Sera, la rivincita di Gigi, non mollo mai. Poi un meeting in un bar. Fulvio Buffi e Fabrizio Caccia raccontano sul Corriere della Sera la giornata del sindaco reintegrato. Dice che ora più che mai vuole essere il sindaco di tutti. E sarà per questo, per non scontentare nessuno, che la mattina cita De André e il pomeriggio Rocco Hunt, che è proprio la stessa cosa non sono, e non soltanto per una questione generazionale. Napoli, primo amore, Napoli nel cuore sempre, reintegrato nelle funzioni, ma sarò sempre sindaco di strada. Poi cita appunto New York Buono, la canzone anche di Rocco Hunt. Questo è Luigi De Magistris, anche per Libero, due pesi, due misure, le toghe rieleggono De Magistris, l'articolo di Mario Giordano. Il TAR accoglie il ricorso del sindaco, blocca la sospensione, rimanda la Severino alla Corte Costituzionale, esattamente ciò che fu negato a Berlusconi. E infatti chi guarda con molta attenzione è proprio Silvio Berlusconi, come racconta Repubblica, pagina 10, con Carmelo Lopapa nel suo retroscena. Silvio ora cerca la rivincita, adesso vede la luce in fondo al tunnel. Berlusconi, proprio dopo questa sentenza che ha riabilitato a sindaco De Magistris, dice Berlusconi ai suoi: ora dobbiamo fare tutto il possibile per inserirci in questo spiraglio. chiama gli avvocati, questa è una chance, si sfoga così, a meno che qualcuno non tenti di discriminarmi anche in questa occasione. Se anche dovessero dichiarare la legge incostituzionale, sarebbero capaci di farlo solo per la parte che riguarda gli amministratori e non i parlamentari, o distinguendo tra condanna di primo grado e quella definitiva. Così Berlusconi teme già che per lui non valga questa differenza. Forza Italia comunque, come dice Repubblica, pagina 10, esclama: e ora reintegrate anche Silvio Berlusconi nell'agibilità politica. Ah, che bel pasticcio questo del TAR. A proposito di leggi elettorali, io non ci volevo credere, cari ascoltatori, questo potrebbe essere davvero un articolo da Mani sul Volante. Lo è. Certamente non vince il premio perché c'è da tenere le mani ben strette sul volante più per un altro articolo, ma non ci volevo credere all'alba della 78esima settimana decisiva per la riforma elettorale che viene archiviata, l'articolo di Libero in prima pagina Franco Bechis. Il bando del governo da 75.000 euro per studiare nuovi modelli elettorali all'estero. È la notizia scovata da Libero, Franco Bechis in prima pagina, perché Matteo ha frenato sulla legge elettorale. È la storia di questo strano bando, lo definisce così Libero, della Boschi, un'indagine sui modelli elettorali dei paesi occidentali. 75.000 euro di bando non sono bastate evidentemente 78 settimane decisive. La Boschi chiede uno studio dettagliato sui paesi europei, con riferimento soprattutto a Regno Unito, Francia, Spagna e Germania, un'analisi dettagliata, infografica dei sistemi elettorali in rapporto ai sistemi dei partiti nell'ambito della forma di governo e della forma di Stato. Gli obiettivi sono quelli appunto di un'indagine sui sistemi elettorali. 75.000 euro. Ah. Chissà la prossima settimana se sarà decisiva oppure no, ma eccoci qui al premio vero, Mani sul Volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. È sul Corriere della Sera, lo scrive Sergio Rizzo, a pagina 6, è l'analisi di un saggio che mette insieme tutte le cose più bizzarre riguardo alle reintegre al lavoro dopo licenziamenti, appellandosi all'articolo 18. È curato da Massimo Bornengo e Antonio Razzi. Eccolo qua il titolo: il vigile del fuoco rapinatore e l'impiegato ubriaco fisso, quei casi assurdi di reintegro. E si racconta: Sergio Rizzo la mattina entrava in banca vestito da sceriffo con cappello da cowboy e stellone sul petto, ma era un dipendente della banca, licenziato, fece causa, ma non ottenne il reintegro. Sfortunato. Fosse capitato con un giudice di Monza che aveva revocato il licenziamento del dipendente di una ditta che si ostinava a presentarsi tutti i giorni con i pantaloni corti, sarebbe andata diversamente. Oppure è successo di essere stato reintegrato a una persona completamente ubriaca tutti i giorni, siccome era sempre ubriaco, giudicato dal giudice del lavoro incapace di intendere e volere, quindi non licenziabile. Il celebre giurista Giuseppe Pera marchiò la sentenza come la sentenza dell'ubriaco fisso. Oppure l'infermiere che picchia una paziente e il giudice intima alla clinica di ridargli il posto con la motivazione che si è trattato di un fatto isolato ed eccezionale in relazione a un paziente particolare. O ancora l'operaio che mostra i genitali ai colleghi e viene reintegrato, tenuto conto che il gesto esibizionistico era compiuto in assenza di personale femminile, non era stato dettato da istinti sessuali e pur nella sua volgarità e indecenza non aveva integrato gli estremi del delitto di atti osceni, così scrive il giudice. E ancora qualcuno che ha molestato due compagne di lavoro compiendo atti esibizionistici, esibendo i genitali ad una di loro, si salva dal licenziamento perché il giudice lo considera un provvedimento disciplinare sproporzionato. Oh, ma poi sti maschietti tutti che mostrano, ma che è? Cioè, proprio tipico. Vabbè. E ancora E vabbè, si potrebbe continuare ancora l'elenco di tutte le reintegre più assurde dopo i licenziamenti sul Corriere della Sera. Sergio Rizzo, potete anche staccare per un attimo le mani sul volante, sempre se siete fermi ovviamente in macchina. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. Alessandro Milan, il cicciottello dell'informazione. Ci sta oggi, il cicciottello dell'informazione. Parleremo di questo alle 8:15, cioè l'uso dell'insulto, del... già se uno dice della diversità fisica, ecco, per delegittimare l'interlocutore. Ciccione, brutto, grasso, nano, quante se ne sono sentite. Ne parleremo dalle 8:15. Intanto l'evento politico del giorno certamente è lo stallo alla nomina del sostituto o sostituta, vorrebbe Matteo Renzi, a Federica Mogherini, ministro degli esteri. Io l'ho riassunto così in un tweet, ve lo riassumo in 3 secondi. Matteo Renzi vorrebbe mettere una donna al ministro degli esteri. Napolitano vorrebbe mettere Lapo Pistelli, che è l'attuale vice ministro degli esteri. Ovviamente un riassunto brutale, ma si evince leggendo dai giornali, insomma, questo stallo, la spinta di Napolitano per una figura collaudata. Pagina 3 del Corriere della Sera è Marzio Breda, sempre molto attento a quello che succede al Quirinale. Con Napolitano racconta ieri lo stallo di un'ora, il confronto franco con Renzi. Quando si dice franco vuol dire che se ne sono dette di santa ragione nella diplomazia del Quirinale e non hanno trovato una soluzione univoca sul nome che deve sostituire Federica Mogherini. E comunque Napolitano vuole una persona di esperienza comprovata. Il primo nome che era stato proposto da Matteo Renzi è quello della 32enne Lia Quartapelle, che però appunto non è, è giudicata troppo poco esperta, 32 anni. Poi anche Marina Sereni, vicepresidente del PD alla Camera, Elisabetta Belloni, che è direttore generale della Farnesina, poi Marta Dassù, che è stata già viceministro. Questi nomi però pare non siano graditi a Napolitano in quanto a esperienza, mentre Lapo Pistelli, che è attuale viceministro, sarebbe più gradito. Tra l'altro però su Lapo Pistelli racconta sempre il Corriere della Sera, questa volta pagina 2 con Marco Galluzzo, che un mese fa ci sarebbe stato un grande litigio tra Renzi e Pistelli. Ora dovete sapere che politicamente Renzi è nato grazie anche a Pistelli. Renzi in passato è stato il portaborse, come si dice in gergo, del parlamentare Lapo Pistelli. Poi Renzi ha fatto molta carriera, come avete visto, anche Pistelli, ma certamente più Renzi, che ora è presidente del Consiglio, e racconta il Corriere: con Pistelli il rapporto del premier a tratti è anche ruvido. Alla Farnesina ancora in questi giorni c'è l'eco di una litigata non proprio passeggera tra il viceministro e il premier durante la recente assemblea generale dell'ONU lo scorso mese. Pagina 2 del Corriere. Insomma, rapporto un po' burrascoso, tanto che Renzi vorrebbe una donna. Come finirà questa vicenda? Una vicenda che certo, come dico spesso, appassionerà e animerà le vostre discussioni se state facendo colazione, se state andando al bar, se state andando al lavoro, se state portando i figli a scuola, tutti a parlare di chi sarà il prossimo ministro degli esteri. Secondo il Messaggero, Napolitano boccia la rosa di Renzi e per la Farnesina spunta però Marta Dassù, che peraltro, ripeto, era... secondo il Corriere già nella rosa di Renzi, è il Toto Nomi. Pensate un po' che il dibattito è talmente surreale che sul secolo XIX, nell'articolo di Giovanni Palombo, il titolo è questo. Una delle candidate, come ha detto, si chiama Lia Quartapelle, viene già promossa così. Quintapelle no! Ma come Quintapelle? Si chiama Quartapelle, amici del secolo XIX, titolo di pagina 3. No a Quintapelle! Meglio Sereni o Pistelli, in realtà si chiama Quartapelle, ma va bene così. Certo, quello che viene escluso da tutti è: no, non andrò alla Farnesina. Se voi sentite come racconta Tommaso Ciriaco a pagina 3 tutti i candidati o del Toto Nomine, Marta Sereni, Marina Sereni, no, non so nulla, non so nulla. Lia Quartapelle, io ministro? No, mi sembra impossibile. La Popistelli? No, stasera vado a mangiare una pizza. Ovviamente è la scaramanzia e anche la diplomazia di non dire mai andrò lì. Il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 7 riassume in maniera un po' brusca quello che è il rapporto tra Renzi e Napolitano da questo punto di vista, cioè basta renzate, tra virgolette renzate. Napolitano dice no sulla Farnesina. L'altra vicenda ovviamente è la vicenda e sono gli strascichi delle polemiche, delle discussioni dopo i gravi episodi delle manganellate agli operai della Terni di due giorni fa. Ieri si sono visti Renzi, Landini, si sono visti i sindacati, si sono visti con le istituzioni, col governo. Landini fa un'intervista a Repubblica, intervistato da Roberto Mania, pagina 15, il leader della FIOM, dice: torni l'acciaio di Stato. Così eviteremo di svendere le industrie agli stranieri. Se non vogliamo svendere o regalare la siderurgia agli stranieri, è indispensabile che lo Stato faccia la sua parte. Ne ho parlato con Renzi, lui mi ha detto che è disponibile a un confronto. Mi scusi, chiede Mania, ma tornare ai tempi dell'IRI? Io penso che non si possa più rinunciare a un intervento pubblico nei settori strategici, risponde Landini, come la siderurgia, finalizzato anche a definire nuovi assetti proprietari. Per esempio, l'ILVA. L'ILVA dovrebbe essere acquistata dallo Stato, chiede Repubblica. Per l'ILVA questo passaggio è necessario, risponde Landini. L'ILVA deve cambiare proprietà. Per fare questo c'è bisogno della forza dello Stato. E anche per l'AST di Terni non escludo nulla. Certo, a Terni è necessario innanzitutto verificare se l'azienda è disposta a rivedere il piano industriale. Poi conferma lo sciopero generale entro novembre, ritorna sulla vicenda degli scontri. E dice quello che ha detto la Camusso sempre due giorni fa da Repubblica sul piano delle politiche sociali e sindacali. Questo governo ha assunto il programma di Confindustria, non solo la cancellazione dell'articolo 18, il demansionamento, che ha detto in inglese vuol dire mobbing, il controllo a distanza dei lavoratori, l'abolizione del reintegro anche nei licenziamenti collettivi con procedure sbagliate. C'è l'obiettivo di far saltare il contratto nazionale e questo non è accettabile, così dice Landini. E quando ho gridato basta Leopolde vuol dire basta discussioni tra chi la pensa allo stesso modo. Questa è la visione di Landini della FIOM. Tra l'altro, secondo la stampa, Renzi è pronto a portare il caso Terni direttamente sul tavolo di Angela Merkel, trattare direttamente con la cancelliera. È l'indiscrezione che c'è a pagina 3 con Fabio Martini sulla stampa. L'opzione di Renzi è quella di maturare a breve un contatto con Angela Merkel per trattare direttamente con lei la vicenda Renzi, per spingere così il governo tedesco, scrive la stampa, a interessarsi della vicenda direttamente con la Thyssen. E se il contatto dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni potrebbe avere risvolti importanti, anche se la disponibilità espressa nelle ultime ore dall'azienda potrebbe rendere non necessario un contatto tra governi. Ma questo è in campo. Invece c'è la polemica su Alfano, criticato politicamente per il Fatto Quotidiano a pagina 3, eccolo qui, l'inutile ministro che parla da solo. Si riepilogano i fatti del 17 ottobre a Torino, la carica ai delegati FIOM al vertice europeo, il caso Shalabayeva, il caso Dell'Utri con la fuga di Dell'Utri poi ripescato in Libano. Il caso Yara Gambirasio, quando con un tweet Angelino rischiò di compromettere l'operazione dell'arresto di Bossetti, il presunto assassino, come racconta il Fatto Quotidiano. Il giornale è durissimo da questo punto di vista, è il titolo di prima pagina dedicato proprio ad Alfano, non è la prima volta che Sallusti è tenero con lui, Alfano come fini. Sallusti fa un editoriale a dire: Angelino Alfano ha più di un punto in comune con Fini. Come Fini complotta contro il suo capo e poi lo tradisce, come Fini è maestro dell'arte di non dire nulla ma dirlo benissimo, come Fini è specialista nel rinnegare il suo passato. Lo chiama traditore fallito nel titolo di prima pagina del giornale, Alfano come Fini, e auspica Sallusti che Renzi, che lo detesta, giura Sallusti, E anche Berlusconi non lo vuole più vedere. Renzi dovrebbe farlo fuori, ma non è aria, perché prima viene la tenuta della maggioranza e all'onore ci penseranno un'altra volta. Insomma, questo è l'attacco durissimo di Sallusti ad Alfano. D'altronde anche noi ci teniamo Mauro Meazza qui nel gruppo al Sole 24 Ore. Che dobbiamo fare? Così per l'onore ci ripenseremo. Mauro, buongiorno, come stai? Buongiorno, buongiorno Alessandro. Ma quindi tu mi detesti come... No. Vabbè, facciamo finta no. che io non te l'abbia chiesto. Sai, no? Sai che mi piace sfruculiarti e provocarti, dai. Guarda, tanto oggi non potrai scalfire il mio ottimismo perché arriverà il 7.30 precompilato, l'hai visto, ne parliamo anche sul Sole 24 Ore, arriverà questa dichiarazione precompilata già dall'anno prossimo. Lo mandano proprio, poi però non ci saranno ancora i dati medici, vabbè, intanto voglio dire 147, così dico questo numero a caso, perché ieri proprio parlando di semplificazioni si è detto che però forse non ce la facciamo a fare la delega fiscale in 147 giorni, io la butto lì, 146, è tutta forse no, stiamo cominciando a fare i conti, forse da quando da quando ho cominciato questo conto la rovescia è arrivato subito il fatto, non è che porto un po', non so, non gli ho detto bene, porta solo sfiga all'Inter, per il resto non... Non tocchiamo questi tasti. Volevo dirti, sul Sole 24 Ore trovi anche la cosa interessante del calo dell'oro, il calo dell'oro che è collegato ai buoni dati economici americani, alla ripresa del dollaro, però c'è un calo dei metalli, l'oro e l'argento. Ti spiega tutto Sissi Bellomo nelle pagine di Finanza. Non cadermi proprio. E poi ho ancora 100 secondi, perché adesso avrete 100 sì. secondi. Certo, tra noi RDS. Sai che ho lanciato questa campagna per avere Rossella Brescia un giorno alle 6.30, ma siccome lei è in onda su RDS a quell'ora non è un po'... È un pochino difficile. Vuoi unirti anche tu alla campagna Free Rossella Brescia? Mi unisco volentieri per Free Rossella Brescia, almeno per 100 secondi, insomma, sì, potrà fare. Esatto. Ti capirà tutto dal 10 novembre, oppure leggi il Sole 24 Ore di oggi che ti spiega bene tutto quanto. E poi naturalmente Italy 24, quindi Italy 24 che è partito molto bene, l'Italia raccontata in inglese anche ai non italiani. E allora a questo punto, caro Alessandro, io ti voglio dire soltanto have a nice weekend. Thank you very much. Mi sto esercitando perché mi hanno detto che ieri ho pronunciato male il termine goofy, quindi jinx, sto cercando jinx. Di migliorare. And good luck for Inter Milano. Sì, tanti auguri anche per la tua squadra. Tanti cari auguri. Ma soprattutto, traffico! Alessandro Milan, il pizzaiuolo dell'informazione. Com'è questo il pizzaiuolo? Grande, come Berlusconi che gli piaceva il giuoco del Milan. Va bene, allora c'è un articolo su Repubblica che racconta invece i costi della politica, i conti dei partiti. È Ettore Livini che fa un po' le pulce a tutti i conti dicendo partiti SPA sull'orlo del fallimento, senza fondi pubblici c'è un buco di 80 milioni di euro. È una pagina interessante, sapete che Renzi ha lanciato questa idea del fundraising, cioè cenare con Renzi 1000 euro a cranio, se li hai Peter Bescapè il 6 novembre a Milano, il 7 novembre se te la perdi è a Roma, che è una cosa che ha lanciato anche Berlusconi, è molto americana, il tentativo di raccogliere fondi così. Racconta Ettore Livini, insomma, i conti del Partito Democratico con il tesoriere Bonifazi molto in difficoltà, ha sforbiciato le spese per il personale del 20%, ha ridotto dell'80% quelle informatiche, sta provando a disdire in anticipo gli affitti di Via del Tritone e Via Tomacelli. E gli onorevoli democratici che versano al partito in tutto 5 milioni e 480 mila euro, ma poi Forza Italia si sa ha dovuto mettere anche in liquidazione e in cassa integrazione e licenziare alcune persone. La Lega che nei giorni scorsi con Matteo Salvini ha annunciato 70 persone dipendenti in cassa integrazione, insomma i conti dei partiti, come certifica anche oggi Repubblica, sono conti in pieno rosso, pagina 8 di Repubblica. Voglio raccontare due notizie diverso taglio che provengono entrambe dall'America, vedono due persone protagoniste. La prima è Brittany Maynard. Forse avete sentito parlare di questa persona, 29 anni, gravemente malata, un tumore al cervello che non le darà scampo, e che aveva annunciato di volere morire il 1 novembre, cioè domani, dopo aver esaudito gli ultimi desideri, i quali erano vedere il Grand Canyon, e l'ha fatto, e festeggiare, e sarà oggi il compleanno del marito. Dopodiché, a 29 anni, dice, andrò in Oregon per l'eutanasia. Brittany è stata anche molto accusata, pensate addirittura, no? Così malata, è stata accusata di spettacolarizzare gli ultimi giorni della sua vita. Ieri ha diffuso un video registrato 15 giorni fa nel quale video ha detto: ho deciso di rinviare il giorno della mia morte, non è il momento, mi sento ancora abbastanza bene, provo ancora gioia, risate, sorrisi con la mia famiglia, gli amici, e questo non mi sembra il momento giusto. Paolo Mastrolilli racconta la sua storia a pagina 10 della Stampa. La ragazza aveva annunciato appunto il suicidio assistito per il 1 novembre. Il mio gesto, annuncia, servirà a dare a tutti gli americani gli stessi diritti. Ora ho rinviato la cosa, ma certamente prima o poi quel giorno arriverà, visto che non ho scampo. Io non so a chi si permette di giudicare scelte così intime e così personali, dettate ovviamente e soprattutto, non bisogna dimenticare, da uno stato di malattia molto grave, non lo so. Eppure c'è chi si è messo a puntare il dito in questa società in cui si giudica tutto in 2 secondi, giudicando questa persona e la sua scelta. Invece punto io il dito e giudico, e lo faccio assumendomi le responsabilità, nei confronti di Tim Cook, amministratore delegato della Apple, il quale ha detto, facendo coming out, sono omosessuale, e vabbè, non c'è nulla di male, e se si vuole anche un bene, racconta i giornali, come top manager riveli pubblicamente la propria tendenza sessuale, però poi ha aggiunto, sono orgoglioso di esserlo, e va bene anche qui, non va benissimo, e poi è il miglior dono che Dio mi potesse dare. Ma che razza di frase è? Ma arriveremo mai al giorno in cui la sessualità delle persone non conta? Nel senso che uno vive la propria dimensione sessuale come vuole, liberamente, senza sbandierarla, senza farne una bandiera. È il miglior dono che Dio... Forse Dio ha altri pensieri in mente che quello di dare il dono dell'omosessualità a una chi che sia persona. Comunque, il numero uno di Apple si conquista varie pagine di giornali anche nel mondo, fiero di essere gay, è un dono di Dio. Questo è il titolo, per esempio, di pagina 15 del Corriere della Sera, ma anche il giornale, che ne fa un po' una polemica, proprio questo: sono gay, dono di Dio, ma l'homosex cattolico è una moda come l'iPad. Vabbè, ovviamente si critica in questo caso anche la scelta di marketing che è stata fatta nel dare questo annuncio. Mentre, attenzione, c'è Fabrizio Corona, re di Vivo, in un'intervista a Virus. Fabrizio Corona dal carcere racconta il Fatto Quotidiano, dice: sono pronto a chiedere la grazia a Giorgio Napolitano. Condannato a 9 anni di carcere, ha rotto gli indugi. Durante un'intervista alla trasmissione Virus di ieri ha annunciato di voler chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Sono pentito, così Fabrizio Corona. Pentita anche, e di molto, è una cittadina italo-canadese che, come raccontano sia la Stampa che il Quotidiano Nazionale in una pagina, dopo 50 anni è tornata a Pompei e ha detto: scusate, ero in viaggio di nozze nel 1964, non ho resistito e ho rubato un vaso di terracotta. È tornata in lacrime a dire: ora, dopo 50 anni, i miei rimorsi sono chiusi, sono finiti e posso dormire tranquilla. Ha restituito il reperto che aveva sottratto nel 1964. Come racconta Antonio Piedimonte sulla Stampa, pagina 18, ecco, finalmente ora posso dormire tranquilla. Mi sono liberata da un peso che con l'età era divenuto insopportabile per la mia coscienza. Grazie a tutti. Un sorriso, la stretta di mano ai carabinieri, le lacrime che le solcano il viso. Questa vicenda riguarda Lisa, canadese di origini napoletane, fanciulla al colmo della felicità nel 64 quando era in viaggio di nozze a Pompei e col marito decise però di fare questo furto archeologico trafugando un reperto, l'ha restituito dopo 50 anni. Vabbè, cosa c'è da raccontare? Io voglio fare un appello, non servirà molto perché se c'è qualche testa calda non è che ascolterà certo l'appello di un pirla qualsiasi qui a Radio 24. Domani però c'è Napoli-Roma, come fa notare Repubblica, un'intera pagina Napoli blindata per la partita della paura. Ricordate l'uccisione di Ciro, il tifoso, alla finale di Coppa Italia all'Olimpico. C'è un'intervista anche alla madre di Ciro che invita Totti ad abbracciare gli avversari per omaggiare Ciro. Insomma, l'appello è una partita di calcio, è una partita di calcio. Quello che è successo è una tragedia, ma vediamo che domani tutto vada tranquillo, ma siamo al momento la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Gli amici della Zanzara non apprezzeranno per nulla, visto che da giorni li sento telefonate e fare solo dibattiti su questo. Il dibattitone tra il filosofo Diego Fusaro su Micromega e la pornostar Valentina Nappi. Il dibattitone finisce anche su Libero, un'intera pagina con la pornostar Valentina Nappi che dice: voglio squirtare in faccia a Diego Fusaro. Non scrivetemi cosa vuol dire squirtare, fate Google squirtare e come scrive Libero, non magari per immagini, proprio andate a vedere lì, ma chi se ne frega.